Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore e ben ritrovati a Il Nemico, viaggio tra vecchi e nuovi fascismi, approfondimento che è giunto alla sua 13ª puntata. Con me, come sempre, c'è Raffaele che saluto. Ciao Raff. Ciao, ciao a tutte e a tutti. Nella puntata di oggi andiamo ad analizzare, approfondire e conoscere un po' più da vicino l'esito delle elezioni politiche in Germania dello scorso mese e per farlo abbiamo come ospite Giorgia Bulli. Ciao Giorgia. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Giorgia Bulli è ricercatrice in scienza politica presso l'Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche, e si occupa da anni di estrema destra in Italia ed in Europa. Insegna comunicazione politica ed elettorale, analisi del linguaggio politico. Giorgia, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ti facciamo una prima domanda. Ovviamente partiamo subito dall'analisi del voto del mese scorso. In linea di massima non ci sono state sorprese se non un crollo dell'SPD, un'affermazione buona della Die Linke e il non raggiungimento del quorum da parte della SSW e dei liberali, scusatemi, dei liberali della FDP, che hanno detto queste elezioni tedesche. E un mese dopo, com'è la situazione? Allora, i risultati delle elezioni in Germania, che erano elezioni anticipate, dovute al crollo della coalizione semaforo, cioè quella costituita da SPD, socialdemocratici, liberali della FDP e Verdi, hanno dato dei risultati che in gran parte erano attesi, ovvero il crollo della SPD. La SPD, il Partito Socialdemocratico, ha realizzato il peggior risultato di sempre nella sua storia elettorale. Il cattivo risultato elettorale anche da parte dei Verdi, che hanno perso meno rispetto al tracollo elettorale della SPD, e addirittura il mancato raggiungimento della soglia del 5% da parte dei liberali che non entrano nemmeno nel Bundestag, cioè non hanno raggiunto la quota minima per avere rappresentanza parlamentare nel Bundestag. Quindi tutti e tre i partiti della cosiddetta coalizione semaforo hanno avuto un risultato elettorale non buono, a volte pessimo, e questo era un risultato atteso per via della grande difficoltà della gestione di questa coalizione, che era una coalizione a tre. Normalmente le coalizioni, il formato coalizionale in Germania è una coalizione a due o di grande coalizione, cioè CDU, CSU e SPD, oppure uno dei due partiti più grandi insieme ai Verdi o ai liberali. Quindi questo risultato era un risultato atteso. E ci si aspettava, così come è successo, che i partiti dell'Unione significa CDU e CSU insieme, la CDU è il Partito Cristiano Democratico e la CSU è il partito, diciamo così, sorella della CDU che è rappresentato, è il partito bavarese. Questi partiti dell'Unione erano dati costantemente dai sondaggi preelettorali intorno al 30-31%, fin dal momento in cui si è saputo che ci sarebbero state le elezioni nel mese di febbraio del 2025. In realtà poi i partiti dell'Unione hanno fatto un pochino peggio rispetto a quanto i sondaggi preelettorali dicevano nel corso delle settimane precedenti. Il risultato elettorale anche che non ci si aspettava è l'ottimo risultato elettorale della Linke. Il partito della Linke, il partito della sinistra radicale, che è diciamo così, l'evoluzione dei vari formati organizzativi del vecchio partito della Germania dell'Est, il partito unico della SED, che poi si è trasformato in PDS, che poi si è trasformato in Linke, nei sondaggi preelettorali veniva dato intorno al 4-5%, cioè ci si chiedeva se anche questo partito sarebbe riuscito a raggiungere la soglia del 5% necessaria per l'attribuzione di seggi nel Bundestag. In realtà, nelle ultime settimane della campagna elettorale, il partito ha fatto benissimo sia dal punto di vista della campagna elettorale realizzata sui social media, sia dal punto di vista della campagna elettorale in strada con porta a porta, messaggi porta a porta su due temi sostanzialmente più importanti, che erano quelli dell'antifascismo e della necessità delle politiche sociali. L'altro partito che non ha raggiunto la soglia necessaria per la rappresentazione nel Bundestag è stato il Bund Nizara Wagenknecht. Che cosa è? Il Bund Nizara Wagenknecht si chiama Alleanza Sara Wagenknecht. Si tratta di un partito nato poco più di un anno fa come scissione dalla Linke. È un partito personale che è stato fondato dall'attivismo di Sara Wagenknecht, che è una personalità carismatica dentro il partito della Linke, e che ha deciso di fondare un proprio partito, che ha avuto immediatamente ottimi risultati elettorali nelle elezioni a livello regionale tenutesi nell'autunno del 2024, tanto che è stata inserita in alcune delle configurazioni di governo a livello regionale in quegli stati. Il Bund Nizara Wagenknecht per poco più di 10.000 voti non è entrato nel Bundestag, e questo ha fatto sì che ci fossero voti e seggi disponibili per quella che si sta configurando come la prossima coalizione di governo, ovvero una grande coalizione fra SPD e CDU-CSU, meglio detto fra CDU e CSU, che è il partito di maggioranza, e SPD. Però dobbiamo sottolineare un elemento: si tratterà molto probabilmente di un'alleanza elettorale fra due partiti che hanno avuto risultati elettorali non brillanti, pessimo per quanto riguarda la SPD, ma non brillante nemmeno per la CDU-CSU, che complessivamente ha ottenuto meno di quanto ci si aspettasse, e complessivamente è un risultato che pone il partito al secondo peggiore risultato di sempre. Quindi è un'alleanza che risponde alla necessità di non far entrare l'AfD, grande vincitore, diciamo così, di queste elezioni, perché ha ottenuto più del 20% a livello federale, e risultati intorno al 36-37% in alcuni länder dell'est come la Turingia. Per evitare che l'AfD entri in un formato coalizionale che non risponderebbe all'idea del cordone sanitario che ancora vige nei confronti del partito di destra radicale populista, è necessario una coalizione fra questi due partiti più grandi, con tutte le difficoltà che stiamo vedendo anche adesso nel dibattito parlamentare. Invece, in che clima si è svolta la campagna elettorale in Germania? Quali sono stati i punti più importanti dove hanno battuto i vari partiti? Allora, il clima preelettorale è stato un clima, da una parte, molto teso sul versante dei temi che sono stati trattati. Il tema più importante per almeno due settimane è stato il tema della migrazione. Questo tema è un tema non nuovo nella politica tedesca. È un tema che fin dalla cosiddetta crisi dei rifugiati 2014-2015, con la decisione anche dell'allora cancelliera Angela Merkel di garantire l'ingresso di più di 1 milione di richiedenti asilo dalla Siria, ha tenuto banco nella politica tedesca, e di fatto ha creato quella situazione di polarizzazione che ha favorito sostanzialmente il partito dell'Alternativa per la Germania, dell'Alternative für Deutschland. Il tema delle migrazioni, però, della gestione delle migrazioni, non è un tema nuovo nella politica tedesca. Già all'inizio del 2010, intorno agli anni 10, il tema era stato sollevato addirittura da un politico appartenente alla SPD, si chiamava Tilo, si chiama ancora, ma allora era diciamo sulla bocca di tutti, Tilo Sarrazin. Aveva scritto un libro, La Germania si autodistrugge, sostanzialmente potrebbe essere tradotto così il titolo, nel quale in questo libro si metteva diciamo, in evidenza che la Germania aveva grosse difficoltà nelle modalità di inclusione, di integrazione della popolazione migrante, soprattutto popolazione migrante di religione islamica. Questo tema aveva suscitato grandissime polemiche, non solo perché il libro era stato scritto da un politico appartenente alla SPD, ma perché andava a intercettare timori diffusi sia dal punto di vista dell'integrazione economica, sia dal punto di vista dell'integrazione di tipo culturale, che in Germania, soprattutto nei Länder della ex Germania dell'Ovest, erano molto sentiti. Perché nei Länder dell'ex Germania dell'Ovest? Perché, nonostante il fatto che l'AfD abbia avuto risultati eccellenti dal punto di vista delle percentuali di voto nelle regioni dell'est, il numero di migranti, di popolazione migrante è molto limitato e lo è per note ragioni storiche, cioè la Germania dell'est non aveva una grande percentuale di popolazione migrante. Le popolazioni migranti erano soprattutto quelle che venivano dai paesi con cui la Germania dell'Est aveva rapporti, soprattutto dal punto di vista rapporti di tipo politico, e quindi migranti dal Vietnam, ad esempio. Ma non c'è dubbio che ancora oggi il numero le percentuali di persone con background migratorio nei Länder dell'Est è molto minore rispetto a quelle dell'Ovest. E nonostante questo, il partito dell'AfD ha avuto un ottimo risultato nei Länder dell'Est. Questo ci dice che non è solamente la questione della migrazione quella che spiega il risultato dell'AfD. Però non c'è dubbio che l'AfD abbia avuto e abbia ancora nel tema delle migrazioni uno dei temi più forti, e è riuscito a imporlo nella campagna elettorale anche perché nel corso dei mesi prima durante la campagna elettorale, prima e dopo durante la campagna elettorale, ci sono state attentati, a partire dall'attentato al mercato di Natale a Magdeburgo nel dicembre 2024, poi c'è stato a gennaio l'attentato a Schaffenburg, dove sono morti un bambino e una persona adulta che aveva cercato di fermare l'attentatore, poi c'è stato l'attentato a Monaco nel febbraio del 2025, e il fatto che questi attentati siano stati perpetrati da persone di origine migrante con una situazione dal punto di vista dell'irregolarità del permesso di asilo, di Duldung, cioè di tolleranza, ha naturalmente scatenato il dibattito. Quindi il tema della migrazione è stato un tema fortissimo, ma è stato un tema forte anche prima dell'inizio ufficiale della campagna elettorale. Ricordiamo ad esempio che nel dicembre del 2024 era stato scoperto da parte di un collettivo giornalistico che si chiama, di indagine giornalistica, che si chiama Correctiv, un incontro segreto che è tenuto nella città di Potsdam, al quale avevano partecipato per esempio rappresentanti della AfD, rappresentanti del movimento identitari, non solo tedeschi ma anche austriaci, nel quale si era discusso il tema della cosiddetta remigrazione. Tema della remigrazione che significa favorire un ritorno ai propri paesi di origine di tutti i cittadini migranti non in condizioni di non regolarità, e in parte anche in situazioni di regolarità. Questo incontro segreto scoperto da questo collettivo di giornalisti Correctiv era stato portato alla luce e aveva creato le condizioni per una grossa mobilitazione dei cittadini e delle cittadine tedesche, che avevano dato luogo a forti manifestazioni molto molto partecipate al motto della difesa della Costituzione contro il nuovo pericolo fascista e neonazista. Quindi di fatto il tema delle migrazioni è un tema che è arrivato molto caldo e molto forte alla campagna elettorale. Quel che è successo poi è che il partito della CDU-CSU con il candidato cancelliere Merz ha pensato di presidiare questo tema cercando di togliere terreno alla mobilitazione sul tema delle migrazioni al partito della AfD, arrivando addirittura a promuovere in un contesto parlamentare al Bundestag la discussione su una mozione parlamentare di inasprimento delle leggi delle misure sulle migrazioni e, come sappiamo, al momento del dibattito parlamentare, poche settimane prima del voto per il rinnovo del Bundestag, la frazione parlamentare della CDU-CSU ha presentato questa mozione di risoluzione che è stata votata anche dall'Alternativa per la Germania. Questo ha rappresentato la rottura di un tabù che per la Germania è un tabù quasi infrangibile, cioè non si accettano voti da parte di un partito che è considerato al di fuori dell'arco costituzionale dal punto di vista del rispetto dei principi democratici, soprattutto sulle questioni relative alla migrazione. L'accettazione dei voti della AfD su questa proposta di risoluzione è stata ovviamente molto criticata da tutti gli altri partiti, prima fra tutte dalla Linke, che con la sua giovane leader ha tenuto un discorso parlamentare di ovviamente critica, stigmatizzazione del comportamento della CDU-CSU, che ha dato poi il via a una campagna elettorale successo della Linke. La polarizzazione sul tema delle migrazioni è stata quindi uno dei principali temi di campagna, che poi si è riflesso su tutti i principali mezzi di comunicazione, con un ruolo della AfD con la leader Alice Weidel, di fatto reso più visibile anche rispetto al passato, per il fatto che media tradizionali e non tradizionali hanno inserito questo tema di campagna al centro del loro coverage mediatico, garantendo di fatto alla AfD una grande visibilità. Se questo sia stato un passo felice politicamente da parte di Merz, cioè quello di cercare di entrare nel terreno della AfD, è difficile da verificare empiricamente. Certamente anche all'interno del partito della CDU-CSU questa volontà del partito, questo tentativo del partito di intestarsi una fermezza sulle questioni migratorie è stato criticato da una parte del partito che risponde più a ideali, a valori di tipo cristiano-sociali. Tutta la mobilitazione che è seguita a questo infrangimento del tabù della non accettazione dei voti della AfD, con grandi manifestazioni nelle più grandi città tedesche, con centinaia di migliaia di partecipanti, può darsi che abbia in qualche modo scalfito l'immagine della CDU-CSU, che non è riuscita a recuperare rispetto alla AfD. Difficile dire se è a causa di questo che la CDU-CSU ha ottenuto meno del 30%, 31% che era la percentuale che le veniva attribuita dai sondaggi di opinione, ma questo tema della polarizzazione è un tema che va tenuto in considerazione. Altro tema della campagna è stato il tema della recessione economica. E su questo si sono scatenate i veti incrociati, soprattutto da parte della CSU, che è il partito bavarese, con Mark Söder, che è un rappresentante molto importante dei partiti dell'Unione, che durante tutta la campagna elettorale ha detto che non avrebbe mai accettato di formare una coalizione con il Partito dei Verdi, perché il Partito dei Verdi aveva nella coalizione Semaforo espresso il ministro dell'economia Robert Habeck, che è stato il candidato cancelliere per i Verdi per questa campagna, e Markus Söder ha definito a più riprese Robert Habeck come il peggiore ministro dell'economia che la Germania, che la Repubblica Federale Tedesca abbia mai avuto. Quindi anche il tema dell'economia è stato un tema importante, meno trattato paradossalmente rispetto al tema delle migrazioni, rispetto allo svolgimento della campagna elettorale. Altro tema importante nella campagna elettorale, che si è attestato soprattutto nella ultima fase della campagna elettorale, è stato quello del ruolo della Germania all'interno dello scacchiere europeo e della dimensione di tipo internazionale. Questo tema soprattutto si è sviluppato a partire dall'intervento del vicepresidente degli Stati Uniti Vance alla conferenza di Monaco. Sappiamo perfettamente che Vance ha fatto ha tenuto un discorso nel quale non solo faceva un endorsement esplicito di fatto nei confronti dell'AfD, ma ha criticato fortemente la gestione europea del linguaggio della verità, e di fatto ha delegittimato l'azione dei partiti mainstream in Germania e non solo. Questa posizione da parte di J.D. Vance è stata fortemente criticata da tutti i partiti, primo fra tutti il cancelliere Scholz, ma anche dal candidato cancelliere Merz, che ha sostenuto che, così come la Germania non aveva criticato, delegittimando i risultati delle elezioni statunitensi che hanno visto la vittoria di Trump, così gli Stati Uniti non avrebbero dovuto mettere bocca nei risultati o nella campagna elettorale della Germania. Quindi anche questo tema della posizione della Germania nella dimensione europea e internazionale è stato un tema rilevante, ma solamente negli ultimi giorni della campagna elettorale. Senti Giorgia, però cosa è cambiato nella politica tedesca? Ad esempio, 10 anni fa, come bene ricordiamo, la Merkel accolse in Germania 1,2 milioni di siriani. Ora invece sembra che ci sia una chiusura, una forte chiusura. C'è l'idea anche di applicare un modello Albania come quello pensato dall'Italia, cioè chi fa richiesta d'asilo in UE, nell'Unione Europea, deve attendere l'esito in un paese terzo. E anche questo, scusami, anche questo il modello della futura Europa, ovvero quella, se vi ricordate, quando veniva chiamata Fortezza Europa. Allora, la cancelliera Merkel prese una decisione di fatto personale. Anche retrospettivamente, il modo in cui l'allora cancelliera Merkel decise di garantire l'ingresso a più di 1 milione di rifugiati siriani è stata di fatto messa al centro dell'attenzione per via della fortissima polarizzazione politica che questa decisione provocò. Io ricordo perfettamente, allora vivevo in Germania, vivevo a Berlino, quegli anni, quei mesi furono mesi di fortissima polarizzazione fra una parte della cittadinanza che dette luogo a azioni di accoglienza che andavano sotto la denominazione di Willkommenskultur, cioè la cultura dell'accoglienza, fatte di azioni anche di organizzazione spontanea, di aiuto sia dal punto di vista dell'integrazione linguistica, dell'integrazione per la ricerca di un alloggio, dell'integrazione lavorativa nei confronti dei migranti. Ma dall'altra parte non c'è dubbio che quella decisione abbia costituito un elemento fortissimo di polarizzazione anche politica a tutto vantaggio dell'AfD. Ricordiamoci che l'AfD aveva tentato più volte di profilarsi dal punto di vista del rigore nei confronti delle migrazioni e delle migrazioni illegali, così come vengono definite e sono state definite molte volte dal partito. Nel 2017 era entrata nel Bundestag proprio perché nel 2015-2016 la contrapposizione a questa decisione si era fatta fortissima e dal punto di vista politico e dal punto di vista della mobilitazione era stata realizzata non solo a livello federale ma a livello dei vari Länder che avevano dovuto affrontare anche a livello di creazione delle possibilità vere e proprie di integrazione sul territorio, tutte le difficoltà che un ingresso così massiccio di richiedenti asilo avevano comportato. Quindi questa polarizzazione, sbaglieremmo a pensarla come una polarizzazione solo politica, è una polarizzazione che tutti gli studi sulla società tedesca mostrano come polarizzazione anche sociale, ed è una polarizzazione che poi si traduce anche nella realizzazione di atti che vanno contro alla politica della cultura dell'accoglienza e certe volte si traducono anche in atti violenti. Per quanto riguarda il riferimento alla Fortezza Europa e al cosiddetto modello Albania proposto dal governo Meloni, bisogna ricordare che addirittura Olaf Scholz, cioè il candidato il cancelliere della SPD, ha avuto parole di interesse nei confronti del modello Albania, per non parlare dell'interesse che anche Ursula von der Leyen ha avuto nei confronti di questo modello. Che cosa significa questo? Significa che non c'è dubbio che i timori nei confronti dell'immigrazione, nei confronti della gestione dei richiedenti asilo sono percepiti come rilevanti da tutti i partiti, quasi da tutti i partiti, ivi compreso il partito della nuova Bündnis Wagenknecht, che è certamente un partito di sinistra, però è considerato anche un partito di sinistra populista per il fatto che Sarah Wagenknecht si è espressa da sinistra con una serie di dubbi, una serie di sollecitazioni relativamente alle difficoltà che la Germania come modello politico e economico ha nei confronti dell'integrazione dei migranti. Quindi questo tipo di tensione relativa all'integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo di fatto è stata proposta sia da destra sia dal centro, appunto i partiti dell'Unione, ma anche da sinistra. E questo spiega come il terreno fosse più che fertile per far sì che il tema dell'immigrazione diventasse il vero tema di campagna, fortemente polarizzato e fortemente intestato almeno su uno dei partiti più importanti della campagna elettorale, che è stata l'Alternativa per la Germania. Quello a cui si sta assistendo adesso dal punto di vista anche dell'interesse dell'Unione Europea a una esternalizzazione della verifica dei requisiti dei richiedenti asilo è il portato lungo di una politica, un dibattito che non da oggi sono molto forti sulle questioni dell'integrazione dei migranti e che rafforzano appunto l'idea dell'esistenza di una fortezza Europa rispetto alla quale sono pochissimi, almeno dal punto di vista della politica tedesca, gli attori politici che si contrappongono. Certamente si è contrapposta la Linke, ma se guardiamo al dibattito parlamentare di cui parlavamo prima, quello relativo all'inasprimento delle politiche promosse dalla CDU-CSU, bisogna guardare che anche la FDP, cioè il Partito dei Liberali, aveva promosso una sua mozione e quindi il tema è stato presentato anche nel dibattito parlamentare non solo dalla CDU-CSU AfD, ma anche dal Partito dei Liberali. È un tema ormai pervasivo rispetto al quale difficilmente si può non prendere posizione. E anche la SPD ha sofferto del fatto che, diciamo, nonostante abbia promosso all'interno della coalizione Semaforo un insieme di leggi che rafforzavano le politiche sociali, però sul tema delle migrazioni certamente non ha avuto una posizione netta dal punto di vista dell'atteggiamento pro immigrazione. Andiamo invece. Vai. No, volevo solo dire, quindi si prospetta un futuro nero per l'Europa, no? non roseo, ecco, per allora, quanto riguarda l'accoglienza, ecco. Certamente tutti gli indizi ci dicono che i piani di integrazione e soprattutto i piani di gestione dei richiedenti asilo saranno caratterizzati da un'impronta di limitazione. Tutto il dibattito su i paesi sicuri ci dice questo. Il dibattito che sappiamo perfettamente si è realizzato in Italia circa anche la contrapposizione fra l'azione di governo e l'azione della magistratura relativamente a quali paesi possono essere considerati sicuri, si riproporrà certamente e si sta già riproponendo a livello europeo. Quindi c'è una evidente trasferimento di questo dibattito, che è un dibattito che può essere considerato un dibattito prevalentemente politico, però ha dei risvolti importantissimi dal punto di vista delle politiche di integrazione. Non c'è dubbio che le minori risorse che vengono concesse a tutte le organizzazioni che si occupano di integrazione, a partire dall'integrazione linguistica, dall'integrazione sociale, non potranno che creare delle situazioni di minore possibilità di integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo, con un evidente risultato che è quello di creare delle situazioni di maggiore sofferenza, di minori possibilità di integrazione, con percezione di mancata sicurezza da parte dei cittadini e delle cittadine, e successivamente il risvolto della politicizzazione anche del tema della sicurezza e del richiamo alla necessità di una maggiore rilevanza del ruolo delle forze dell'ordine, che è anche questo un elemento di richiamo forte dell'Alternativa per la Germania come partito. Quindi il circolo da questo punto di vista sembra essere un circolo di tipo certamente non virtuoso, perché se consideriamo che le modalità con cui cittadine e cittadini che vengono dai paesi extraeuropei hanno di fare richiesta per un ingresso legale nei paesi dell'Unione Europea, ovviamente se c'è un restringimento delle possibilità di ingresso anche attraverso il canale dell'asilo, che è il canale che molti cittadini e cittadini usano per poter avere un ingresso legale, e con la limitazione di ingressi e dei visti per lavoro, questo ci dice che non solo c'è una prospettiva di fortezza Europa dal punto di vista politico, ma c'è una limitazione dei diritti di integrazione dei migranti che si risolverà in una situazione di insicurezza e di mancanza di sicurezza anche a livello di integrazione sociale, politica, linguistica, economica, che non può che dare fiato nuovamente alle retoriche dell'estrema destra o della destra radicale populista. Invece parliamo dell'AfD, che, come hai detto, sono i veri vincitori di queste elezioni, almeno numericamente. E che origine ha questo partito e come si è evoluto all'interno della Germania? E invece, adesso che è diventato un grosso partito, che cosa cerca a livello di alleanze e di politica internazionale? Il partito dell'AfD è un partito che è nato poco più di 10 anni fa. Le origini del partito sono piuttosto diverse rispetto alle trasformazioni più recenti dell'AfD. È un partito che è nato sulla scorta delle insoddisfazioni, della critica forte circa le politiche della Germania di gestione della crisi del debito, ed è stato fondato da un gruppo piuttosto ristretto di economisti intellettuali di origine liberale. Alcuni fra essi erano attivi nel partito della CDU. Le origini del partito non ci devono trarre in inganno, perché è vero che il nucleo originario dell'AfD era un nucleo originario di tipo liberale, però ben presto il partito si è aperto anche all'ingresso di una componente di tipo nazionalista e subito dopo Völkisch, che ha di fatto creato una situazione all'interno del partito che ha visto la coesistenza quasi fin da subito di una componente più liberale, più euroscettica, e di una componente invece tipicamente populista di destra, con un impianto nazionalista e xenofobo molto evidente. Questa coesistenza di queste due anime del partito si è molto rafforzata immediatamente dopo i passaggi evolutivi dell'AfD che l'hanno portata al suo primo ingresso nel Bundestag nel 2017. Cos'è successo questi anni? È successo che, così come tutti i partiti, anche l'AfD non può essere considerata come un partito monolitico. Il partito ha avuto, soprattutto nei Länder, nelle regioni dell'Est, una virata nazionalista, una virata radicale molto evidente, tanto che una frazione organizzativa del partito, che si chiamava l'ALA, e a cui era capo il noto esponente della Turingia, Björn Höcke, rappresentava una frazione che l'organo di protezione costituzionale che vigila in Germania sul rispetto dei principi democratici da parte di tutte le organizzazioni, ivi comprese le organizzazioni politiche, appunto l'organo di protezione costituzionale, ha giudicato questa frazione all'interno del partito AfD, che si chiamava appunto l'ALA, come di fatto contraria ai principi costituzionali. Questa opera di vigilanza dell'organo di protezione costituzionale nei confronti dell'AfD ha naturalmente creato le condizioni affinché la AfD venisse posta sotto controllo. Che cosa significa questo? Questo significa che non solo le azioni e i comportamenti dell'Alternativa per la Germania vengono costantemente monitorati, ma il loro continuo monitoraggio da parte dell'organo di protezione costituzionale non fa che rinforzare i motivi e gli elementi di preoccupazione da parte degli altri partiti rispetto all'inclusione nel gioco democratico da parte dell'AfD, rafforzando l'atteggiamento del cordone sanitario. Attualmente l'AfD è un partito che alcuni studiosi considerano come un partito di destra, partito populista di destra con componenti di tipo radicale. Altri studiosi la considerano come un partito di fatto di estrema destra. Quali sono gli elementi che concorrono a far comprendere questo partito all'interno dei partiti di destra estrema? Certamente le proposte politiche nei confronti dell'immigrazione, il partito e Alice Weidel come esponente, come candidata cancelliera, ha più volte utilizzato il concetto di re-migrazione. Il concetto di re-migrazione è un concetto che non ha solo a che fare con l'inasprimento delle politiche sull'immigrazione, ma ha a che fare con politiche di espulsione, diciamo, di ampia scala e di ampia portata nei confronti della popolazione migrante di un paese. È un concetto che viene usato non solo in Germania, ma per esempio anche in Austria. È stato molto usato dal partito della FPÖ, con il candidato cancelliere Kickl, che come sappiamo ha avuto anche la possibilità di esprimere un governo, poi non ci è riuscito, ma il tema della remigrazione era anche un punto importante nella piattaforma programmatica della FPÖ, e la politica illiberale della AfD si esprime su tutta un'altra serie di livelli, non solo le migrazioni, ma anche la lotta senza quartiere alla cosiddetta politica della gender ideology. Si esprime con fortissimi richiami alla necessità di una comunità omogenea, richiama in maniera fortissima le questioni della legge e dell'ordine con una richiesta molto forte di aumento delle prerogative delle forze dell'ordine in Germania, e in più, elemento da non tenere, da non sottovalutare, ha anche un forte impatto sulla critica a tutte le politiche di lotta alla decarbonizzazione che sono state un nucleo centrale della coalizione Semaforo, ovviamente trainate dai Verdi. Queste politiche vengono definite dall'AfD come politiche della clima isteria e richiamano alla necessità di tornare a una produzione industriale incentrata, per esempio, sulla produzione dell'auto a diesel, ovviamente rifiutando tutti i piani del Green Deal sia a livello tedesco sia a livello europeo. Il partito dell'AfD, quindi, è un partito che mescola, che riesce a mischiare elementi più appunto nazionalisti, völkisch, con elementi appunto di richiamo a una necessità di ritorno a una produzione industriale che ormai che la coalizione Semaforo aveva tentato di mettere ormai in cantina, e a una società di tipo omogeneo che rifiuta qualsiasi tipo di differenza, e dal punto di vista dei diritti dei cittadini migranti e dal punto di vista dei cittadini che appartengono a minoranze. Lo fa con toni aggressivi, lo fa con toni molto anti-establishment, e lo fa con richiami anche alle posizioni espresse da movimenti di tipo intellettuale o movimenti che si esprimono anche in questo caso con richiami di tipo nazionalista völkisch, come ad esempio i movimenti sociali Pegida, o pubblicazioni come Compact, che nel luglio dello scorso anno fu messo appunto fuori legge dalla protezione costituzionale, è stato poi reimmesso nel circuito perché ha vinto il ricorso, ma diciamo di fatto la AfD ha tutta una serie di legami e a livello nazionale e a livello internazionale con circoli intellettuali e con circoli di produzione mediatica che rafforzano questa produzione di messaggi nazionalisti, xenofobi e völkisch. Quindi diciamo possiamo dire che la AfD non ha un'ideologia nostalgica come altri partiti di estrema destra, anche europei, italiani, è spoglio da questa diciamo da queste catene di un'ideologia nostalgica, appunto. Allora, certamente l'AfD è un partito, come ho detto, che è stato fondato poco più di 10 anni fa. È evidente che per via della storia tedesca non possa fare riferimento esplicito al nazionalsocialismo. Questo non significa che non ci siano riferimenti di tipo implicito. Quando Björn Höcke, che è il leader della Turingia, e era il punto di riferimento della frazione Lala, si esprimeva nei confronti della politica della memoria in maniera assolutamente netta, lo faceva con riferimenti simbolici chiari, definendo ad esempio il monumento a Berlino contro lo sterminio degli ebrei come il cosiddetto monumento della vergogna. Si esprimeva relativamente alla storia di Dresda bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale in maniera critica nei confronti dell'azione degli alleati. Di fatto c'è tutta una serie di richiami di tipo implicito che fanno sì che anche la AfD possa essere considerato come un partito che fa uso della memoria storica in maniera non esplicita ma implicita in un contesto nel quale questi riferimenti ovviamente sono colti dall'opinione pubblica in maniera fortemente divisiva. Altro elemento che occorre sottolineare relativo al perché nella Germania dell'Est, negli stati della Germania dell'Est, l'AfD sia stata fortemente votata. Abbiamo visto che può essere un elemento la paura che dell'immigrazione, fenomeno non conosciuto come nel caso delle regioni dell'Ovest, ma rispetto al quale comunque si ha paura relativamente a un fenomeno un po' meno conosciuto, ma che comunque fa paura. Ma se si guarda ai motivi per i quali i cittadini e le cittadine hanno votato l'AfD, oltre alla paura dell'immigrazione, ci sono temi che hanno a che fare con la sottovalutazione sistematica percepita dei cittadini dell'Est relativamente alle preoccupazioni e ai problemi delle regioni dell'Est. Cioè i cittadini dell'Est pensano e ritengono che i loro problemi come cittadini che vivono ancora nelle regioni dell'est della Germania non vengano presi in considerazione dai partiti tradizionali, e questo è uno dei motivi per cui si rivolgono alla AfD. C'è anche una paura dell'inflazione, c'è anche una paura del fatto che le opinioni espresse dai cittadini dell'Est valgano meno, sono percepite come meno importanti rispetto a quelle percepite dai partiti dell'Ovest. E tutte le ricerche volte sulle regioni dell'est in questi anni mostrano che le grandi mobilitazioni anche di movimenti sociali vicini all'Alternativa per la Germania come Pegida abbiano portato in piazza non solo preoccupazioni relativamente all'immigrazione e all'integrazione dei cittadini migranti, soprattutto di religione islamica, ma anche le paure del tradimento della democrazia, così come questa si è compiuta dopo la riunificazione. C'è ancora un elemento importante di sensazione di mancate promesse della Germania riunificata rispetto alle promesse di realizzazione compiuta della democrazia che erano state portate avanti nell'89 da quei cittadini che chiedevano più democrazia o addirittura la riunificazione della Germania dell'Est con la Germania dell'Ovest. Secondo te ci sono dei legami tra i vari partiti di estrema destra europea? Ti faccio questa domanda perché con il sostegno di Musk all'FD, l'elezione di Trump, subito dopo si è parlato della costruzione del Make Europe Great Again, che secondo te è una probabilità concreta questa? AfD dal punto di vista internazionale la dobbiamo analizzare su due livelli. Primo è il livello per esempio del Parlamento europeo. AfD in questo momento non sta assieme ai partiti più grandi dei partiti di destra radicale, populisti, perché è isolata dal momento in cui prima delle elezioni europee, delle ultime elezioni europee, è stata di fatto estromessa dal partito europeo al quale faceva riferimento, al quale apparteneva Identità e Democrazia, dal gruppo di Rassemblement National di Marine Le Pen. E questo perché? Perché alcuni dei suoi esponenti si erano espressi appunto in maniera non più implicita ma esplicita sulla diciamo così bontà del regime nazionalsocialista, cosa che aveva provocato ovviamente una riprovazione immediata da parte del Rassemblement National, che è pure un partito populista di destra, ma che non vuole avere niente a che fare con un partito ambiguo sulle questioni delle memorie del regime nazionalsocialista. Quindi in questo momento AfD fa parte del gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, assieme per esempio al partito Reconquête di Zemmour. Questo è un primo livello. Il secondo livello è un livello che ci viene, diciamo così, raccontato anche appunto non, a livello su base annuale dall'organo di protezione costituzionale tedesca, che ogni anno emette un bollettino di monitoraggio dei legami che i partiti e i gruppi e i movimenti hanno a livello nazionale e internazionale, non solo sul versante dell'estrema destra, ma sul versante di tutte le azioni politiche che si compiono in contrapposizione ai principi democratici. Che cosa ci dice questo bollettino? E che cosa ci dice questo bollettino, cioè questo monitoraggio a livello annuale? Ci dice che i legami fra i gruppuscoli di estrema destra, movimenti identitari, piccoli gruppi, che ce ne sono moltissimi a livello sia federale sia regionale, sono legami di tipo internazionale piuttosto forti. AfD cerca di tenersi fuori dalla dimensione più esplicita di questi legami, perché chiaramente è un partito che vuol fare politica di partito e vuole essere considerato come una formazione che nel lungo periodo possa essere considerata come un partner di governo. Ma non c'è dubbio che tutti i legami fra circoli intellettuali, pubblicazioni, mondo della musica di estrema destra, a livello internazionale includano gli esponenti della galassia, la cosiddetta galassia nera sul versante internazionale, comprendano ovviamente anche gli esponenti tedeschi. Poi che cosa succede? Succede che singolarmente anche alcuni rappresentanti dell'AfD fanno parte di questi circoli, ragione per cui appunto l'organizzazione di questo incontro segreto a Potsdam, in cui si parlava di remigrazione, vedeva coinvolti e esponenti di queste organizzazioni più piccole di natura gruppuscolari, però anche a livello individuale esponenti dell'AfD. Quindi AfD come partito cerca di tenersi lontano da questi legami internazionali, il che non significa che singoli esponenti poi non siano attivi in questa dimensione transnazionale. Invece, restando sull'argomento, diciamo, Musk, ormai X è diventato un social di propaganda di tutta un'area di estrema destra. Come l'AfD invece utilizza i vari social per la propaganda? AfD è stata molto forte fin dall'inizio della sua strategia politico-elettorale a utilizzare e a investire sui nuovi social media. Lo ha fatto inizialmente con Facebook, l'ha fatto con allora Twitter, e adesso è diventata particolarmente forte su TikTok. Come è possibile spiegare questo? È possibile perché, essendo un partito nuovo, anche organizzativamente, ha avuto la possibilità di investire su queste nuove forme della comunicazione senza dover scontare le strutture organizzative tipiche di un partito tradizionale. Noi pensiamo, per esempio, ai partiti dell'Unione o alla SPD, che devono superare tutta una serie di gravami organizzativi anche dal punto di vista della comunicazione, della comunicazione politica e della coesistenza di canali di tipo tradizionali con canali di tipo nuovo social. AfD non ha avuto questo tipo di problema. Il messaggio tipico di AfD, basato sulla contrapposizione manichea fra il bene e il male, basato anche dichiarazioni shock di cui Frauke Petri, Gauland, adesso Alice Weidel sono i maggiori portatori, questo tipo di messaggio si incorpora perfettamente nella dimensione, nella struttura tipica dei social media, così come si incorpora nella drammatizzazione del messaggio tipica dei social media e anche nella struttura comunicativa incentrata su notizie o del tutto false o false in parte. Da questo punto di vista l'investimento sui social media è stato a livello comparativo molto più forte e molto più redditizio rispetto a tutti i partiti di tipo tradizionale. Non c'è dubbio poi che gli endorsement, perché di endorsement ce ne sono stati più di uno di Musk nei confronti dell'AfD, abbiano contato molto, non solo per il cappello di legittimazione che Musk ha dato all'AfD e nel contesto nazionale e nel contesto internazionale, ma anche perché tutte le volte che Musk si esprimeva, anche a partire dalla convention, dalla manifestazione che ha incoronato Alice Weidel come candidata cancelliera, tutte le volte che Musk è intervenuto anche in quell'occasione, tutti i media hanno parlato di questo, garantendo una pubblicità a bassissimo costo a Alternative für Deutschland. Da questo punto di vista anche Alternative für Deutschland è molto esperta a gestire i propri flussi comunicativi. Una diretta che Alice Weidel ha fatto con Musk su X, nella quale addirittura in maniera assolutamente provocatoria Alice Weidel ha definito Adolf Hitler come un comunista, hanno garantito il principio del ribaltamento della realtà dal punto di vista ideologico e hanno fatto parlare moltissimo di AfD, con tanto di inviti in tutti i talk show, con tanto di domanda che anche oggi in media tradizionali si fanno relativamente a quanto è il ruolo dei media, quanto è stato importante il ruolo dei media nella, diciamo così, legittimazione del ruolo della, della AfD nello scenario politico nazionale e internazionale. Si tratta di figure come quella di Musk che sono fortemente divisive, che in qualche modo sono anche contraddittorie. Se prendiamo AfD e prendiamo, diciamo, guardiamo le fasce dell'elettorato che maggiormente hanno votato AfD, coloro che sono in difficoltà dal punto di vista delle, delle condizioni di lavoro, cioè persone senza lavoro o persone che appartengono appunto alla, alla classe lavoratrice, sembrerebbe una contraddizione che queste persone colgano positivamente i segnali e le, gli endorsement di Musk, che rappresenta invece il mondo dei, dei tycoon, della, del multimiliardario che produce le macchine Tesla anche sfruttando, diciamo, il mondo del lavoro. Però tutte queste contraddizioni si ricompongono in realtà nel momento in cui il principio fondante del richiamo dalla, alla bontà del voto dell'AfD si struttura su due elementi principali. Il primo è un appello anti-establishment fortissimo, e il secondo è lo slogan, il vecchio slogan della, della, dell'AfD, cioè Mut zur Wahrheit, che significa il coraggio di dire la verità. Questo partito, il partito dell'AfD, così come molti altri partiti populisti di destra radicale, sostengono di dire la verità in un mondo in cui tutti i partiti tradizionali sono di fatto d'accordo nella nascondere la verità alla, al popolo. E in questo richiamo alla politica della verità, che è stato anche un richiamo fortemente presente nel, nel messaggio di J.D. Vance alla conferenza di Monaco, si ricompongono tutte le fratture, e sono molte, che spiegano il voto AfD da parte della, della classe lavoratrice, quando AfD ha un programma economico di tipo liberale, se non liberista. Quindi c'è, io ritorno sul, diciamo, sulle, sui fili, sui legami, sulle relazioni, c'è un, ci sono dei legami tra i linguaggi comunicativi dei, dei partiti di estrema destra europei? I legami sono tanti, sono forti e sono sviluppati. Però sono strutturati in maniera diversa a seconda delle opportunità politiche. Certamente AfD sa perfettamente che fino a questo momento si tratta e si è trattato di un partito che non aveva possibilità di concorrere alla formazione dei governi né a livello locale né a livello federale, nazionale. Questo gli dà un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è quello del cosiddetto overpromising, cioè si può promettere molto di più rispetto a quanto il partito poi sarebbe in grado di realizzare una volta in cui si trovasse a gestire responsabilità di governo, che gli vengono precluse dal cordone sanitario. Quindi i richiami alla, alla remigrazione, i richiami alla sostituzione etnica, i richiami alla follia dell'ideologia di genere, sono tutti temi e sono tutti diciamo così gradienti della comunicazione politica che il partito si può permettere perché sa di non dover concorrere alla formazione del governo. Però tutti questi elementi vengono tenuti all'interno di una cornice che fa sì che il partito complessivamente non possa essere, non venga considerato come contrario ai principi costituzionali, cosa che secondo la legge tedesca lo metterebbe, potrebbe metterlo fuori legge e quindi il partito potrebbe essere vietato. Non sarebbe la prima volta, perché organizzazioni più piccole a livello tedesco sono state e vengono anche messe fuori legge. Ho fatto prima il caso della pubblicazione Compact, ma ce ne sono molti dei casi in cui organizzazioni vengono messe fuori legge. Quindi ovviamente il partito questo vuole cercare di evitarlo e si tiene sulla linea di demarcazione sottile fra richiami nazionalisti, völkisch, antipluralisti e garanzia della dimensione costituzionale. Però questo non significa che questi elementi di tipo tematico, identitario, völkisch e nazionalista non vengano condivisi su altre piattaforme, appunto di legami con organizzazioni più piccole o produzioni di tipo intellettuale. Questo fa sì che si crei una dimensione transnazionale della comunicazione politica dell'estrema destra, che certamente è non è un unicum né a livello europeo né a livello appunto transnazionale. Da questo punto di vista basti guardare richiamavi prima i legami fra Make America Great Again e Make Europe Great Again. Ci sono tutta una serie di legami di tipo tematico che vanno dalla logica dal richiamo della sostituzione etnica ai piani di remigrazione a contenuti chiaramente xenofobi e in parte anche antisemiti che creano legami e piattaforme fra le estreme destre a livello transnazionale. E su questo le ricerche che vengono fatte dal punto di vista della social media network analysis sono indicative del fatto che queste organizzazioni, soprattutto in rete, condividono legami forti che non sono solo legami di tipo tematico, valoriale, intellettuale, ma sono legami che poi si sviluppano anche a livello di networking, di merchandising, di vere e proprie strutture di marketing che danno la possibilità anche a queste organizzazioni di raccogliere anche fondi che sono importanti per la loro mobilitazione. Ci ritorniamo alle elezioni che si sono svolte in Germania e l'affermazione, come abbiamo visto, anche un po' a sorpresa della Linke. E la Linke è andata a sfidare la destra su temi concreti tipo salari, occupazioni, costo della vita, e l'ha sfidato con idee e con proposte che potremmo definire di sinistra, e questo ha fatto sì che abbia, a mio parere, rosicchiato anche una parte dell'elettorato alla SPD. Credi che iniziare a riproporre temi di sinistra senza ambiguità possa essere una buona strategia per sconfiggere questo ritorno dell'estrema destra? La Linke ha avuto un doppio vantaggio in questa campagna elettorale. Il primo vantaggio, che sembra un po' paradossale, è di fatto essersi liberata della figura molto carismatica ma anche molto impegnativa da gestire di Sahra Wagenknecht. L'alleanza Sahra Wagenknecht, come sappiamo, appunto non è entrata per un soffio, 10.000 voti più o meno nel Bundestag, il che significa che c'è un potenziale, diciamo, a sinistra molto importante. Perché se sommiamo il quasi 5% che ha ottenuto l'alleanza della Sahra Wagenknecht con il risultato ottenuto dalla Linke, che è un 8,6%, chiaramente abbiamo un potenziale importante sulla sinistra, anche se si tratta di sinistre di tipo un po' diverso. Quindi il primo vantaggio della Linke è stata quella di aver potuto ricominciare a fare una campagna elettorale e una politica sui temi, diciamo, tipicamente sociali, senza poter essere accusato di quel populismo di sinistra, quindi in Italia si dice rosso-brunismo, che è stato invece associato come caratteristica di tipo valoriale ideologico all'alleanza di Sahra Wagenknecht. L'altro vantaggio che ha avuto è quello della polarizzazione appunto sul tema delle migrazioni. La giovane leader della Linke, Heidi Reichneck, ha fatto un discorso al Bundestag nel momento in cui l'AfD ha votato sulla risoluzione della CDU-CSU, che è stato virale, è stato riproposto sui social media centinaia di migliaia di volte. Perché? Perché con questo suo atteggiamento, con questa sua retorica molto improntata sull'elemento antifascista, sull'elemento invece di richiamo non solo al cordone sanitario, ma anche a una vera e propria retorica che non deve far passare alcun elemento della retorica dell'AfD, Heidi Reichneck ha dato il via a una campagna di grande successo della Linke, che ha visto anche non solo un successo nelle urne, ma un successo in termini di numero nuovo di iscritti, soprattutto fra l'elettorato giovane. Qual è stato il contributo in termini di proposte e di temi del partito della Linke? Appunto, un elemento chiaro e netto antifascista, i temi della giustizia sociale, soprattutto incentrati sul tema dell'alloggio. Il tema dell'alloggio è un tema oggi in Germania, soprattutto nelle grandi città, di fondamentale importanza, sia dal punto di vista della garanzia di ottenere un alloggio, sia dal punto di vista della possibilità di pagare gli affitti. Il tema è diventato pervasivo nelle grandi città, non solamente Berlino, ma anche sia le città dei Länder dell'Ovest, sia le città dei Länder dell'Est più grandi, quelle che attirano anche popolazioni giovani che si spostano dalle aree più rurali dell'Est in città come Dresda, Lipsia, ma anche Erfurt, perché il tema dell'alloggio è legato ovviamente con i temi della giustizia sociale, così come la Linke ha proposto un tema che è diventato di fatto residuale per quanto riguarda gli altri partiti, di universalismo dell'accesso ai diritti sociali. Il tema vede una contrapposizione netta con AfD, che propugna invece il tema della preferenza nazionale, cioè I servizi sociali dovrebbero essere garantiti solamente alle persone native, cioè alle persone tedesche, perché solo le persone che hanno contribuito alla creazione e alla strutturazione di un forte stato sociale devono poterne godere i diritti. Ecco, la Linke si contrappone fortemente a questo principio, riproponendo i temi dell'accesso universale ai servizi sociali, soprattutto per le fasce delle popolazioni più deboli. Per esempio, famiglie con persona singola che si occupa dei figli minori e persone a rischio grave di marginalità sociale. Quindi, il tema della Linke è un tema di giustizia sociale diffusa con principio di accesso universale ai servizi sociali. Ovviamente questi dovrebbero essere temi che caratterizzano anche la promessa di un partito come la SPD, che pure nella coalizione Semaforo si è impegnata soprattutto in relazione all'innalzamento del tetto del salario minimo, ma che non è riuscita a comunicare bene nel corso degli anni del governo questi risultati di policy, anche perché ovviamente la coalizione Semaforo è stata investita da temi anche a livello di politica internazionale che hanno coperto i raggiungimenti di politiche sulle dimensioni sociali. Altro tema che è stato importante in campagna elettorale per la Linke, ma soprattutto per il Bund Nizara Wagenknecht, è stato quello della pace. Se si passeggiava nelle città tedesche nelle settimane di campagna elettorale, si poteva vedere che molti partiti avevano il tema pace e la parola pace nei poster elettorali, ma il partito che è stato ritenuto più credibile sul tema del richiamo alla pace è stato il partito di Zara Wagenknecht. Certamente con accuse incrociate di filoputinismo, ma è stato il partito che più si è speso nella richiesta di una cessazione del conflitto e anche di una cessazione del riarmo. Quindi c'è spazio certamente per un richiamo ai temi sociali, però quello che ci dice il dibattito parlamentare anche negli ultimi giorni è che quella che si prospetta come la prossima coalizione di governo, ovvero la grande coalizione fra SPD e CDU-CSU, avrà grossi problemi a trovare all'interno del budget un capitolato di spesa che debba andare nei confronti delle politiche sociali. Sappiamo perfettamente che i temi del giorno sono quelli relativi al riarmo, sappiamo perfettamente che i temi del non più rispetto del freno al debito devono essere passati nel corso di questi ultimi giorni della legislazione, perché si tratta di una modifica costituzionale che deve essere realizzata adesso, perché se si andasse sulla nuova composizione del Bundestag, AfD e Linke avrebbero il potenziale di veto su queste riforme, e quindi la situazione paradossale è che si sta cercando, e probabilmente si riuscirà nel corso della prossima settimana, a intervenire sul blocco al freno del debito all'interno degli ultimi giorni di questa legislatura. Però sia la Linke che in questo momento i Verdi stanno chiedendo che questo piano complessivo di miliardi che devono andare all'aumento delle spese per il riarmo e anche all'aumento strutturale della spesa trovino un capitolato di spesa che debba andare, per quanto riguarda l'interesse dei Verdi, alla protezione delle policies sull'ambiente e, per quanto riguarda l'interesse della Linke, alla protezione delle politiche sociali. Questo è un elemento di cui la grande coalizione dovrà tenere considerazione, perché se è vero che si tratterà di una coalizione, di una grande coalizione fra i due partiti più grandi, è vero anche che questi due partiti più grandi sono i partiti che hanno avuto performance elettorali non brillanti, e quindi si tratta di una coalizione elettorale che per evitare l'ingresso della AfD si struttura come il raggruppamento dei due partiti più importanti, ma non più importanti dal punto di vista del risultato elettorale. Sappiamo che il secondo partito più importante in questo momento dal punto di vista dei risultati elettorali è l'AfD. Quindi c'è un tema anche di legittimità dell'azione di governo e la grande coalizione dovrà stare molto attenta, perché l'opposizione di diversa impostazione ideologica che ci sarà in Parlamento, ovvero AfD da una parte e Linke e Verdi dall'altra parte, staranno molto attenti affinché le temi che hanno garantito loro, soprattutto per Linke e AfD, un buon risultato elettorale vengano non disconosciuti dall'azione di governo della grande coalizione. Si prospettano appunto anni di grande turbolenza di tipo internazionale, questo lo stiamo vedendo non solamente per quanto riguarda la Germania, le future proiezioni della Germania sullo scenario internazionale, ma anche di forte turbolenza, perché non ci dimentichiamo che la Germania sta affrontando una crisi economica molto importante, con licenziamento nel comparto della produzione industriale, non da ultimo della Volkswagen, notizia degli ultimi giorni, che i licenziamenti dei lavoratori creano grossi elementi di instabilità, di dubbio, di paura, di timori nella cittadinanza, e quindi tutto sommato l'azione di governo della grande coalizione, se grande coalizione sarà, dovrà stare molto attenta sia sul versante delle relazioni internazionali, ma anche sul versante interno, perché risposte alle mobilitazioni e al successo della AfD da una parte e della Linke, quindi sul versante della sinistra dall'altra, dovranno in qualche modo essere date. Senti, Giorgia, invece per quanto riguarda le affermazioni sulla politica del riarmo della von der Leyen, quali sono state le reazioni dell'estrema destra in Germania? Allora, paradossalmente il tema del riarmo è un tema che vede l'opinione pubblica tedesca in maniera, diciamo così, più incline alle ragioni delle politiche del riarmo. Ovviamente AfD deve avere un'attenzione di tipo simbolico doppia. Se da una parte non può esporsi sul versante della diciamo così della quella che viene definita l'eccessiva vicinanza al regime di Putin, deve anche stare attenta a non mettersi in contrapposizione con appunto i maggiorenti, che hanno garantito grande attenzione nel corso della campagna elettorale per il partito, e il riferimento a Musk è un riferimento d'obbligo. Quindi il tema è un tema che si svilupperà nel corso dei prossimi giorni, anche nel corso del prossimo dibattito parlamentare, e uno studio del dibattito parlamentare su questo si potrà dire come il partito si posiziona su questo elemento, che anche a livello simbolico non è semplicissimo da gestire. Allora, leggendo invece le prime analisi del voto in Germania sui quotidiani italiani, alcuni analisti hanno sottolineato che l'affermazione dell'AfD sia dovuta a una migrazione del voto da sinistra a destra da parte della classe operaia. Io sempre ritenuto che questa analisi sia un po' superficiale, e viene riproposta quasi sempre ogni volta che i partiti dell'estrema destra hanno una buona affermazione elettorale. Ammesso che ci sia ancora questo voto di classe, non sarebbe meglio domandarsi del perché gli operai votano a destra? Il tema della proletarizzazione del voto dell'estrema destra non è un tema nuovo. Non solo non è un tema nuovo, non è una realtà empirica nuova. È vero che i rappresentanti della classe operaia votano sempre più a destra. È vero non solamente in Europa, ma anche in contesto extraeuropeo. Quindi chiaramente è un tipo di notizia che fa scalpore, ma è un tipo di notizia che è suffragata dai dati, ed è suffragata appunto anche in questo caso dal tracollo elettorale della SPD e dal successo della AfD. Perché le persone lavoratrici, e anche i dati ci dicono le persone che non hanno un lavoro, cioè disoccupate, votano per l'AfD. Votano per l'AfD, e votano per l'AfD non da adesso, perché non hanno più fiducia nei confronti dei partiti tradizionali, che vengono considerati come partiti che non dicono la verità, come partiti che quando hanno responsabilità di governo non fanno abbastanza e non si impegnano abbastanza, non si impegnano abbastanza per quanto riguarda le ragioni dell'AfD all'est, per tutta una serie di elementi di tipo reale che hanno a che fare con i salari che all'est sono ancora più bassi rispetto all'ovest, con il fatto che la garanzia pensionistica anche in termini di quota appunto delle pensioni non è allo stesso livello delle pensioni dell'ovest, quindi ci sono tutta una serie di motivi che fanno sì che i partiti tradizionali, soprattutto quelli socialdemocratici, vengano ritenuti non sufficientemente impegnati sulla garanzia dei diritti delle classi lavoratrici. In Germania, appunto, è chiaro anche che le persone che si trovano in condizioni di disoccupazione hanno votato per l'AfD, anche perché, appunto, essendo un partito che non è mai stato al governo, non paga lo scotto di politiche che di fatto non è in grado di fare. Quindi l'overpromising di cui parlavo prima, cioè promettere molto, criticare, operare una lotta, una critica senza quartiere ai partiti di tipo tradizionali, non costa niente all'Alternativa per la Germania e ha il massimo massimamente redditizia nella comunicazione politica. C'è da chiedersi anche un'altra cosa, cioè quanto i partiti tradizionali abbiano abdicato a un linguaggio che li caratterizzava sul versante della protezione dei diritti dei lavoratori. Se leggiamo i programmi politici dei partiti socialdemocratici, non solo in Germania, del Partito Socialdemocratico non solo in Germania, ma in tutta Europa, c'è una sempre maggior ritrosia a far riferimento alle parole chiave del capitalismo, dei diritti dei lavoratori, perché di fatto le azioni di politiche messe in atto dai partiti socialdemocratici quando sono stati al governo sono politiche che si iscrivono in gran parte anche in un corso neoliberale, rispetto alla quale ovviamente i partiti della destra radicale populisti hanno tutto il vantaggio a criticare, nonostante, e questa è la dimensione paradossale, non ci siano, questo a livello europeo, programmi elettorali dal punto di vista economico dei partiti populisti di destra che si impiantino su una critica forte al capitalismo. Questo l'ha fatto il Bundesara Wagenknecht, ma certamente non l'ha fatto la Linke. Non ha fatto l'Alternativa per la Germania. Sono elementi appunto di tipo paradossale che però vanno letti per quanto riguarda la Germania con questa dimensione di varianza est-ovest che ci aiuta molto a comprendere le dimensioni della sofferenza delle regioni dell'est rispetto alle regioni dell'ovest. Quindi da un punto di vista del ritorno giornalistico alla sottolineatura che ormai la classe operaia vota per la destra, non è solamente una vulgata giornalistica, ma è appunto suffragata anche da un'indagine di tipo empirico. Però secondo me ci si sofferma troppo su questa, viene data quasi come l'unica causa. Non è l'unica causa relativamente ai voti, per esempio, della AfD. Vi faccio riferimento a indagini demoscopiche condotte immediatamente dopo il voto del febbraio del 2025 in Germania. Fra i motivi che hanno spinto l'elettorato a votare per la AfD, è stata posta una domanda a coloro che hanno dichiarato di votare per la AfD: quali sono i motivi più grossi di tensione e di paura dell'elettorato relativamente alle urgenze di tipo politico e sociale in Germania? Il primo elemento è ho paura che in Germania arrivino troppe persone straniere. Il secondo è che si ha temore, cioè l'elettorato dell'AfD ha temore che di non poter esprimere preoccupazioni su una serie di temi che vengono considerati come tabù nell'opinione pubblica. Il terzo elemento ha a che fare ovviamente con la paura dell'inflazione, con la paura di non riuscire a arrivare a fine mese. L'altro elemento è quello di aver paura di non riuscire a mantenere il proprio livello di vita. E il livello di vita non è inteso solamente come qualità della vita dal punto di vista economico, ma anche come qualità della vita relativamente a profili di spesa, alla percezione della sicurezza, alla percezione del vivere all'interno di un mondo rispetto al quale si riconoscono le coordinate di tipo culturale e identitario. Quindi certamente la questione economica è una questione importante, ma che va letta insieme a un profilo di insicurezza culturale e identitaria rispetto al quale AfD certamente ha un richiamo nazionalista xenofobo che riporta a una società che è descritta come omogenea, che è descritta come sostanzialmente orizzontale, che è descritta come foriera di strutture e possibilità di democrazia diretta che in questo momento nessun sistema politico garantisce. Tutto sommato questi elementi reggono alla prova di un elettorato che è sempre più interclassista, che è un elettorato relativamente all'AfD in cui la dimensione maschile conta, ma conta meno rispetto al passato, cioè per AfD votano anche le donne, non solo, non è più un partito solamente maschile, e in cui le fasce di età sono fasce di età in cui il partito riesce a pescare piuttosto bene a livello trasversale. Gian, noi ti facciamo l'ultima domanda. È una domanda che facciamo, diciamo, a tutte i nostri ospiti. Cioè, cosa significa essere di destra, di estrema destra, 2025? E soprattutto, questa la facciamo ovviamente a te, in Germania come si vive questa escalation delle destre di AfD? Si vive con grande preoccupazione, con grandissima preoccupazione in tutta una fascia della società che è preoccupata per la tenuta della cornice costituzionale, che ovviamente è di fondamentale importanza per la Germania, sia per le generazioni più giovani, sia per le generazioni più anziane che sono più vicine ai ricordi del regime nazionalsocialista. Quindi la grande preoccupazione è una preoccupazione che ha portato migliaia di persone in piazza, che porta a divisioni all'interno di cerchi sociali, per cui la polarizzazione è una polarizzazione che non si esprime solamente nel voto, ma si esprime anche nella incapacità di prendere in considerazione le ragioni dell'altro quando l'altro sostiene di votare per un partito che è considerato dalla parte sinistra come incostituzionale, come l'AfD. Questa polarizzazione è una polarizzazione che va a tutto vantaggio dell'estrema destra. Va a vantaggio dal punto di vista della AfD e dal punto di vista comunicativo, va a vantaggio della AfD dal punto di vista della, appunto, irresponsabilità della gestione dell'opinione pubblica, perché il partito non è chiamato a responsabilità di governo. Va a vantaggio nella dimensione internazionale, perché ovviamente a Musk non costa niente fare endorsement uno dopo l'altro per l'AfD, perché questo rinforza l'idea di una politica anti-establishment non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Essere di estrema destra oggi, dal punto di vista di chi vota sul versante dell'AfD, significa che gli altri non comprendono i motivi profondi della mobilitazione, che non è per molta parte percepita come una mobilitazione antidemocratica, ma come una mobilitazione anzi democratica. Molti degli elettori dell'AfD non riconoscono la legittimità degli attori politici tradizionali. Li ritengono menzogneri, li ritengono portatori di una politica del weiter-so, cioè del continuare a riproporre schemi di tipo fallimentari. Non riconoscono l'autorità scientifica, per esempio, degli scienziati, e questo si è visto nelle mobilitazioni antivacciniste, si è vista nell'affermazione dei cosiddetti Querdenker, che sono i pensatori laterali, non solo sulla dimensione antivaccinista, ma anche di pensatori laterali a tutto un movimento che ha a che fare con la messa in dubbio della realtà della politica tradizionale. E anche molti elettori dell'AfD non danno legittimità a tutte le interpretazioni della crisi climatica, e questo spiega anche la fortissima mobilitazione anti-Green Deal. Quindi gli elettori dell'AfD, certamente c'è una parte degli elettori che si riconosce in una serie di elementi tipici dell'estremismo di destra più spinto, cioè la negazione dell'uguaglianza fra persone, valori che hanno a che fare con dimensioni völkisch nazionaliste, ma c'è una parte anche dell'elettorato che è fortemente frustrato dal modo in cui la democrazia, e soprattutto la democrazia tedesca, avrebbe tradito gli ideali della riunificazione, soprattutto nelle regioni dell'est. Quindi essere di estrema destra oggi in Germania è molto divisivo, sia fra coloro che avversano l'estrema destra, la AfD, sia coloro che vi si riconoscono, rispettivamente al fatto che solo una parte è una parte, diciamo così, profondamente irrispettosa dei valori costituzionali, ma c'è una parte molto importante che invece vota per l'AfD per una, in tedesco viene definita Politik Verdrossenheit, cioè proprio una assoluta mancanza di fiducia nei confronti della politica tradizionale, espressa non solamente dai partiti, ma anche dai gruppi di interesse a livello nazionale e internazionale, da tutti quei circoli di rappresentazione culturale e mediatica relativamente alle quali gli elettori di AfD non solo non si riconoscono, ma che rifiutano in toto. Giorgia, noi ti ringraziamo per aver partecipato al nostro approfondimento, e veramente grazie soprattutto per averci illuminato sulla politica, sulla situazione politica tedesca. Non so se Raffaele aveva altre domande. No, va bene. Grazie per l'intervento. Grazie a voi. Quindi ancora grazie. Bene, benissimo. Allora, grazie a voi e buona giornata e buon lavoro. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.